X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Patrizia Greco, milanese, sposata, una figlia, due nipoti, laurea in legge, entra all'Italtel, scala tutti i gradini, diventa amministratore delegato, passa alla Siemens, sempre come amministratore delegato, poi all'Olivetti ancora come numero uno. Prima donna presidente dell'Enel. Anche lei adesso però è coinvolta per la sua parte nell'affrontare l'emergenza del post-terremoto di Amatrice e dintorni. Ecco, presidente Greco, le faccio una domanda che le farebbe la popolazione di Amatrice. Cosa fa l'Enel per le zone terremotate? L'Enel per le zone terremotate ha incominciato a sospendere i termini di pagamento, ha sospeso l'emissione di nuove bollette in modo tale da evitare l'addebito automatico sui conti correnti. Quindi diciamo, le bollette adesso non vanno pagate? No, le bollette in questo momento non vanno pagate, in attesa del provvedimento dell'Authority che deve disciplinare le modalità che verranno applicate alle zone colpite però, dal sisma. Però per essere chiari, lei dice sono sospese e va bene, è bene, ma sospese non vuol dire annullate, cioè non le pagano adesso, le pagheranno in seguito? Per esempio, se prendiamo come riferimento quello che fu fatto all'Aquila, furono fatti per 3 anni, mi pare, delle rateizzazioni sui pagamenti e degli sconti sulla bolletta. Questo fu il provvedimento dell'Authority per l'Aquila. E questo potrebbe essere ripetuto? Vediamo quello che succederà per Amatrice, ma potrebbe essere ripetuto, sì. Quello che ci tengo a dire, però, devo dire, è anche vorrei sottolineare che Enel per le zone terremotate non fa soltanto operazioni di rateizzazione delle bollette. Cosa fa d'altro? Beh, per esempio ripristina le utenze, e devo dire le ripristina con veramente grandissima abnegazione da parte dei tecnici dell'Enel. Ecco, presidente, questo è bene. Presidente, ma lei quando legge le bollette dell'Enel, dica la verità, le capisce? Beh, le capisco oggi più che una volta, nel senso quindi che un cittadino normale, se non le capisce è normale. Diciamo che le bollette effettivamente sono complesse, perché poi sono divise in 3 parti, non voglio annoiare, ma insomma ma c'è un problema di trasparenza divisione? No, non c'è un problema di trasparenza. Problema di trasparenza, il problema è che la bolletta è divisa in 3 parti, una parte sono i cosiddetti oneri. Vabbè. Allora la saltiamo. La bolletta 2.0 è certamente più chiara di quella del passato, e noi stiamo aiutando molto i nostri clienti attraverso web, call center, eccetera, a chiarirsi le idee. Senta, mi dica la verità, da 0 a 10 che voto dà la trasparenza? Cosa vuole che le dica? Almeno 8 alla trasparenza. Senta, ma che senso ha avuto far nascere il mercato libero dell'energia se i prezzi di questo mercato sono più alti di quelli tutelato? No, il mercato a maggior tutela è destinato a scomparire, anche perché nell'ambito comunitario non è più accettabile. Il mercato libero sarà mercato libero, quindi i prezzi saranno fatti dalla competizione tra le varie aziende che offriranno sul mercato libero. Senta, adesso voi raccogliete anche il canone della RAI, è stato un problema per voi? Ma io all'inizio, devo dire, avevo anche espresso dei timori proprio per l'ingranaggio, anche in termini tecnologici, la complessità della cosa. Invece poi, devo dire, è andato tutto molto bene. Abbiamo raccolto i soldi del canone, li verseremo all'Agenzia delle Entrate e poi il governo provvederà. Quindi voi le date all'Agenzia delle Entrate, quanti ne avete raccolti? 2 miliardi? Sì, circa 2 miliardi tutti gli operatori, non soltanto Enel, ma tutti insieme. Quindi l'evasione non è più possibile? L'evasione in questo momento è quella della bolletta elettrica, ma è bassissima. La prima riforma fiscale che funziona. Sì, non c'è dubbio, ha funzionato e consentirà di abbassare il canone l'anno prossimo, peraltro. Senta, ma quanti hanno cambiato il gestore in base alle offerte di sconto? Pochi, noi non abbiamo avuto un aumento significativo. Non significativo. Senta, presidente Greco, lei qui a Mix24 aveva detto che l'Enel è lo specchio del paese, che ha finalmente trovato il piacere di cambiare. Lo direbbe ancora oggi? Sì, per l'Enel sicuramente. Mi auguro che sia valido anche per il paese, che il paese continui ad amare un processo di riforme che secondo me deve continuare per rendere il paese sempre deve più competitivo. Deve continuare, ma intanto si è fermato. Lei al referendum ha votato sì? Io ho votato sì al referendum. Senta, subito dopo la nomina lei ha detto: la mia parola chiave sarà discontinuità. Ha tenuto fede all'impegno? Io penso che l'Enel di oggi abbia attuato un forte percorso di discontinuità. Cioè tra l'Enel del 2014 e quella del 2017? Ci sono sostanziali differenze, La cosa più qualificante? Ce ne sono tante. C'è la nuova struttura organizzativa, la separazione di Endesa dalle attività del Sud America, la riorganizzazione del Sud America. Ci arriviamo. Un nuovo brand che accomuna tutte le aziende Enel in giro per il mondo, e sono tante. E lei personalmente? Che cosa ha fatto di significativo nella discontinuità, a parte essere il presidente dell'Enel, ovviamente? Insomma, mi sembra di avere operato proprio perché per tutto questo potesse succedere. Esatto. Senta, presidente, lei è la prima donna presidente dell'Enel dopo essere stata nominata amministratore delegato di molte altre società, l'abbiamo detto nella presentazione. È difficile abbandonare la prima linea? Talvolta, perché la prima linea è adrenalinica. Ha imparato a diventare politica? Insomma. No, non ho imparato. Ho provato a trasmettere un po' di adrenalina anche nel ruolo di presidente, perché effettivamente i cambiamenti che abbiamo fatto in questi 3 anni hanno richiesto adrenalina anche per il presidente. Sì. Ma che cosa di più, cosa le manca di più dell'essentrici? Quella adrenalina detto fatto? E quella adrenalina che ti consente di vedere appunto che quello che fai, voglio dire, che sia il risultato delle azioni, si vede, sì, che risultato dell'azione si vede. Devo dire che anche nella governance però di un gruppo così complesso si può vedere il risultato delle proprie azioni. Sì. Cioè ha imparato da presidente che esiste anche un'adrenalina da presidente. Ho imparato da presidente che si può avere adrenalina anche nel ruolo di presidente. Ah, vabbè. Senta, la sua nomina è legata alla scelta di Renzi di dire tutte donne alla presidenza degli enti pubblici e ha nominato tutte donne alla presidenza degli enti. Renzi non c'è più, adesso si sente orfana? Non mi sento orfana, però devo dire fu un gesto di grande discontinuità, usando un termine che lei ha citato e che io penso abbia dato dei buoni risultati e che credo dovrebbe continuare. Quindi lei farebbe volentieri un secondo mandato? Io farei volentieri un secondo mandato, vedremo cosa deciderà l'azionista. Certo. Per continuare nel processo di trasformazione che noi abbiamo avviato, perché non c'è dubbio che Enel oggi sia una delle aziende, delle utility al mondo leader nel guidare la transizione energetica, quindi una maggiore elettrificazione dei consumi, quindi infatti, è molto interessante. Parlando della trasformazione energetica, il CEO Storace, cioè il capo azienda, ha detto: siamo testimoni di un trasferimento di valore dalla produzione elettrica alla clientela e questo trend si accelererà. Ma esattamente cosa significa per uno che la capisce semplice? No, la capisce semplice significa che il cliente è sempre più importante anche per una utility elettrica, e non era così scontato fino a qualche anno fa, perché l'offerta di servizi aumenterà proprio perché molti consumi verranno soddisfatti attraverso l'elettricità, pensi alla mobilità elettrica, mentre non era così prima. Quindi ci sarà la possibilità di offrire al proprio cliente al centro. Il cliente è davvero al centro ed è uno dei motivi per cui, devo dire, il nuovo piano strategico, in aggiunta ai pilastri del vecchio piano che naturalmente continueranno, ha 2 nuovi pilastri. Uno è proprio la centralità del cliente in questa logica e l'altro è la digitalizzazione, che serve proprio perché il cliente possa essere sempre più centrale. Ma mi spiega cosa vuol dire energia 4.0? Energia 4.0 vuol dire un processo di digitalizzazione che, partendo dalle rinnovabili, che essendo non continue portano la rete ad avere degli sbalzi che lei ovviamente deve evitare, quindi la rete deve essere sempre più intelligente per gestire flussi in ingresso e flussi in uscita questo. E quindi significa digitalizzazione. E quanti investimenti richiede questo piano 4.0? Questo piano 4.0 richiede tanti investimenti, perché noi stiamo parlando di circa 6 miliardi di investimenti miliardi. Sulle reti, di quasi altrettanto sulle rinnovabili. Quindi 12 miliardi? Sì, no, ma credo che gli investimenti complessivi del piano siano circa 17 investimenti in crescita. Ecco, ma per trovare miliardi, questi 17 miliardi, dovrete vendere qualche pezzo pregiato in giro per il mondo? Non credo proprio. Nel senso che generiamo abbastanza cassa da affrontare questi investimenti senza dover vendere i gioielli di famiglia. Poi certamente noi abbiamo un piano di rotazione di asset, quindi volta a volta decidiamo quali asset possono essere dismessi a fronte di un programma di acquisizione. Ecco, presidente Greco, ma vista a distanza di anni, l'acquisizione di Endesa, cioè del gigante spagnolo dell'elettricità, è stata una scelta strategica giusta oppure no? Io credo assolutamente giusta. Intanto Endesa contribuisce comunque per il 24% alla redditività del gruppo, che non è proprio banale. Quindi è stata una scelta buona e coraggiosa. Sì, all'epoca. E poi Endesa ha portato proprio la piattaforma di crescita di una grande multinazionale, perché con Endesa che noi ci siamo allargati in Europa, ma abbiamo anche acquisito una serie di paesi in Sud America, qui la presenza in Sud America. Ma è il debito che ha comportato è sopportabile? Il debito, alcuni analisti oggi stanno dicendo che è troppo basso. Quindi il debito è sopportabile. Insomma, chi ha fatto quella scelta è stato bravo, allora, insomma, diciamo, onore al merito. Onore al merito. Ecco, nelle scorse settimane si è parlato di un buyback sulle vostre azioni di 2 miliardi di euro, è vero? È vero che noi porteremo in assemblea... Cioè è possibile che capiti? No, noi porteremo in assemblea, la prossima assemblea, una richiesta all'assemblea di autorizzazione perché il Consiglio possa eventualmente decidere un buyback fino a 2 miliardi. È anche vero che nel nostro piano strategico la priorità per quei 2 miliardi è ancora un'ulteriore razionalizzazione delle minorities in Sud America. Ma è una mossa difensiva o no? No, perché? No strategica, insomma, di gestione. È assolutamente una mossa che serve, evidentemente, che se non riusciamo nell'operazione di riacquisto delle minorities in Sud America, possiamo evidentemente migliorare il rapporto con i nostri azionisti in Italia. Ecco, Presidente Greco, ma c'è il rischio che il controllo di Enel possa passare di mano? Ma insomma, il ministero con il nostro Ministero Economia e Finanze ha ancora il 23,6% è sufficiente, del capitale di Enel, sul flottante i fondi hanno il 75%. È vero che sono... Ecco, ma i fondi sono... Ma i fondi non sono... I fondi sono... fanno i fondi, quindi... I fondi fanno i fondi, quindi il loro core business è trarre, come dire, alti interessi dal denaro investito, sì. Non è certo gestire le aziende. No, certo, però alti interessi può coincidere con... Anche ma con non, cambiare no, sì, ma no, ma non, in, no. Perlomeno non avete questa sensazione? No. Noi abbiamo la sensazione che il loro core business sia la migliore gestione possibile degli investimenti, certo, che fanno, ma non sia quello di assumersi la responsabilità, cioè, andate di bene voi, andate bene voi. Senta, a dicembre Enel America ha esordito a Wall Street. È il punto di arrivo della riorganizzazione del gruppo in Sud America di cui parlava? No, io penso che sia un punto importante, ma che ancora molto lavoro debba essere fatto. Abbiamo separato le attività cilene da quelle degli altri paesi di nostra presenza in Sud America. Adesso andrà fatto un grande lavoro paese per paese proprio per rendere più efficiente la nostra presenza. Ma con che obiettivo finale? L'obiettivo è quello naturalmente di migliorare l'efficienza e la catena di controllo sulle nostre partecipate in Sud America. Senta, Presidente, l'attività di Enel Cuore, di cui lei ha la delega, come si legano alle strategie di business del gruppo? Vede, io credo che si leghino intorno al concetto di territorialità. Enel è una grande azienda sul territorio, certo, nostro, come quello degli altri paesi, ma negli altri paesi abbiamo anche altre fondazioni filantropiche, quindi parlando di Enel Cuore e concentrandoci sull'Italia si lega molto al concetto di territorialità, quindi abbiamo avviato due grandi progetti, uno con Sant'Egidio per le persone anziane e uno con Reggio Children per i bambini, proprio per legare sempre più Enel ai territori di presenza. E questi sono l'obiettivo del suo mandato? Questo è l'obiettivo del mio mandato. Che lei si è dato. Ecco, lei dice che se è vero che l'energia è vita, e certo è vero, allora deve essere anche dignità umana e conoscenza. In questo senso è la sua interpretazione di Enel Cuore? È la mia interpretazione di quello... Cioè, mi fa un esempio concreto. È la mia interpretazione di quello che noi intendiamo per sostenibilità. Noi siamo davvero per la nuova politica, è una parte del cambiamento importante di Enel. Noi siamo primi nei ranking per la sostenibilità, nei ranking mondiali per la sostenibilità, e non è proprio facile per una utility che evidentemente ha anche un problema di emissioni. Infatti. E quindi il tema della sostenibilità, dell'inclusione, della vicinanza alle comunità in paesi in cui comunque noi operiamo per decine d'anni attraverso i nostri impianti di generazione, ecco, però, e di distribuzione, è importante. Però, Presidente Greco, lei ha sempre sostenuto che per l'impresa la sfida, lo sta dicendo, da vincere, mettere insieme crescita economica, sviluppo sociale, sì, ambientale, però in Italia il 50% dell'energia che producete voi viene ancora dal carbone, quindi lì c'è una bella contraddizione. No, non c'è nessuna contraddizione. Noi abbiamo dichiarato, non si fa dalla sera alla mattina, abbiamo dichiarato che saremo carbon free nel 2050, ma era molto più alto. Nel piano strategico dei prossimi 3 anni la capacità delle rinnovabili passerà da 10 gigawatt a 17 gigawatt, quindi il mix cambierà continuamente, è una progressione. Senta, non così comunque, tanto lentamente. No, lei dice Va bene, ok. Io vorrei zero. Vabbè, però... Adesso comunque a livello mondiale le fonti energetiche rinnovabili hanno superato il carbone a livello mondiale. Vuol dire che sarà il secolo del rinnovabile questo, a parte l'Italia? Io penso che il tema ambientale, a meno che non subisca degli imprevisti e non augurabili stop, prosegua su questa strada. Molti investimenti saranno dirottati verso le rinnovabili che nel frattempo, siccome aumentano di scala e c'è una forte innovazione tecnologica, diventano sempre più competitive. Ecco, quindi... ma però che cosa ha sbagliato l'Italia nella politica di sviluppo delle rinnovabili? Perché perché in Italia siamo ancora lì, 50%. No, non ha sbagliato granché, visto che l'Italia ha raggiunto gli obiettivi di in termini di sviluppo delle rinnovabili previsti dalla Comunità Europea con molto anticipo rispetto ad altri paesi. Quindi, non abbiamo sbagliato granché. Va tutto bene, tutto si può migliorare, ma cioè, dire sempre che abbiamo sbagliato non aiuta. No, io faccio domande solo. Non aiuta molto. No. Senta, ma nel futuro quale sarà la principale fonte di energia? Probabilmente le rinnovabili. Rinnovabili. Ma esiste un'energia pulita oppure è uno slogan? No, beh, le rinnovabili sono pulite. Pulite, le rinnovabili in sono assoluto. Pulite, non hanno emissioni, quindi le rinnovabili sono pulite. Certo, anche alcuni tipi di energia nucleare sono pulite, evidentemente, pongono altri tipi di problemi. Lei pensa che ci sarà un ripensamento sul nucleare? Non su questo, forse su una nuova tecnologia, ma non so, non so tra quanto e se. Senta, Presidente Greco, lei viene dalle telecomunicazioni, l'ho detto, oggi in qualche modo anche l'Enel è entrata nelle telecomunicazioni concorrendo alla realizzazione della banda larga. Insomma, siamo a Enel contro Telecom. Non mi pare proprio, nel senso se che ne parla molto. Enel non è entrata nei servizi di telecomunicazioni. No, però Enel, sulla banda larga Enel, siete concorrenti. Enel, voglio dire, interpretando anche correttamente un auspicio della Comunità Europea con una direttiva che mi pare sia la numero 30 del 2016, sì, ha cercato di realizzare una convergenza infrastrutturale proprio per poter permettere un deployment di infrastruttura costi più competitivi. Per capirci in italiano, c'è questa concorrenza tra l'Enel e Telecom? Non c'è nessuna concorrenza, perché noi non facciamo offerta sulla banda larga abbiamo ripetutamente offerto a Telecom Italia, se conveniente per lei, la parità di accesso alle stesse condizioni di Open Fiber per l'uso dell'infrastruttura elettrica. Vabbè, quindi niente, insomma, alcune banche d'affari però dicono che, caduto il governo Renzi, lo scenario sulla banda larga è un po' senza di voi. Si sbagliano? Ma io non ho notizia di analisti negativi rispetto alla banda larga. Li ha letti solo lei, perché il titolo Enel, anzi, sta andando, devo dire, abbastanza bene. Senta, Tarak Ben Ammar, che è un consulente un po' di tutti in questo settore, ci ha detto che secondo lui però Enel e Telecom dovrebbero essere unite, non scontrarsi, cioè unite. C'è la possibilità di essere unite? Io penso che noi continuiamo a pensare che Telecom potrebbe, come posso dire, aderire in alcune situazioni all'offerta infrastrutturale che noi facciamo, però certamente è una decisione di Telecom Italia. Quindi è lei che deve aderire alle vostre infrastrutture? Noi andiamo avanti sul nostro progetto di deployment. Quindi ognuno per sé, siamo ancora ognuno per sé, d'accordo. Senta, Presidente Greco, lei, l'abbiamo detto, aveva nella parola discontinuità, ne abbiamo parlato, il mantra del suo mandato. Com'è andata con le donne all'Enel? C'è stata la discontinuità o non ce n'era bisogno? No, con le donne all'Enel, vede, l'Enel opera in un contesto industriale in cui naturalmente il peso del genere femminile è più basso, perché se lei pensa ai tecnici di rete è abbastanza difficile immaginare una donna che di notte si arrampica sui tralicci, no? Quindi abbiamo una percentuale di donne più bassa, è un'azienda fortemente industriale, fortemente caratterizzata da capacità ingegneristiche. Cioè, ma un'azienda è maschilista? No, ma non è un'azienda maschilistica. È maschile per natura? È maschile perché il contesto industriale effettivamente è un contesto che favorisce quello. Ma però ne ha trovate molte in posizione di comando? Ho trovato per esempio Francesca Di Carlo, responsabile delle risorse umane, con la quale abbiamo avviato un grande progetto di diversity che non è soltanto sul genere, ma è sulle tradizioni, sulla cultura, sul colore della pelle, sulla diversità in generale, che riguarda i 30 paesi in cui Enel opera ed è un progetto molto interessante che tende anche a, come dire, uso un termine inglese, comply or explain nel caso in cui le donne non siano giudicate abbastanza capaci di svolgere un determinato lavoro. Ma allora, a proposito di questo, esiste una visione al femminile del potere, secondo lei? Guardi, io in questo devo dire che non cambierò mai idea. Esiste la sensibilità dell'essere umano, maschio o donna o maschio o femmina che sia, nell'esercitare il potere. Io non ho visto anche tante donne assumere ruoli ruoli, come dire, molto maschili nell'esercizio del potere. Io penso che esista la sensibilità dell'essere umano e su quella bisognerebbe lavorare. Cioè, quindi il valore aggiunto di genere, al netto ovviamente delle competenze, c'è o non c'è? Il valore aggiunto di genere sta nella diversità e nel fatto che le donne abbiano meno partecipato all'esercizio del potere, quindi siano meno compromesse con l'esercizio del potere. Quindi ha ragione Cazzullo quando dice che le donne domineranno la terra? Non so se domineranno la terra, certo che voi uomini non avete prodotto un gran risultato. No, è un disastro. Speriamo nelle donne. Allora, senta, prima da laureata in legge, lei ha studiato tutto sui bit, adesso tutto sull'energia. È un business più semplice o più complicato quello dell'energia rispetto alle telecomunicazioni? Difficile dirlo, sono business regolati, sono business complessi, sono business infrastrutturali, sono business che operano sono tutti complicati, operano entrambi sulla base di risorse che comunque i paesi attraverso le concessioni devono mettere a disposizione, quindi sono business complicati. Ma lei è laureata in legge, studia molto, prima i bit, non le dico quanto ho studiato. Continuamente. Sì. Senta, il suo peggior difetto qual è? È l'intolleranza verso la stupidità, mi dà fastidio. Mamma la stupidità. Mia, tutti i giorni esercita allora opere. Abbastanza. Come la combatte? Devo dire che passando gli anni riesco a combatterla sempre di meno, però insomma cerco di controllarmi. Sì, mi viene proprio. Quattro schiaffi ogni tanto. Senta, Presidente Grieco, l'ingegner Carlo De Benedetti dice che siamo entrati in un secolo di stagnazione, che la globalizzazione così non va e ci ha accecati. È vero? Ma io non so, vede, dipende da che angolo la guarda lei la globalizzazione, perché se lo dice alla classe media dei paesi emergenti che sta crescendo in modo esponenziale, quelli sono ben contenti della globalizzazione. Più che la classe media, quella più bassa ancora. Nel senso che stanno crescendo dalla classe più bassa verso ceto medio, diciamo. No? In Occidente capita il contrario. È chiaro che è capitato il contrario, perché come se lei avesse la torta non è aumentata, quindi lei ha un travaso di ricchezza dall'Occidente verso mondo. I paesi emergenti, questo è. Quindi lei è favorevole a questa forma di globalizzazione? Continuo a pensare che la globalizzazione intanto sia difficile tornare indietro, non credo particolarmente a forme di protezionismo, credo che naturalmente vada, come dire, regolata. Però parlando di protezionismo, Trump sembra avere un modello di sviluppo per l'Occidente diverso da quello previsto dalla globalizzazione. Ah, non c'è dubbio, voglio dire, leggo soltanto le dichiarazioni che ha fatto sino ad ora, poi vedremo come opererà. Senta, ma un grande economista come Luigi Zingales ha scritto: Trump è pro business ma non pro mercato. È possibile? Voglio dire, cosa vuol dire protezionismo? Si può fare grandi business anche col protezionismo. Esatto. È stata una sorpresa per lei la sua vittoria? Sì, devo dire di sì, però ormai mi sorprendo molto facilmente. Sì, perché il mondo cambia in fretta. Molto. È difficile capire cosa pensa la gente, perché insomma la Brexit, il Trump, è difficile, il referendum... È davvero insomma, difficile capire, credo che dovremmo veramente ragionare sulle disuguaglianze e sui risultati per l'Occidente della globalizzazione di cui parlavamo prima, appunto, credo che bisognerebbe che l'Occidente riacquistasse una leadership politica forte. Lei cosa si aspetta dalla presidenza Trump? In termini di Enel? Impegnata nella vita, francamente, diciamo, non so cosa aspettarmi, perché bisognerà... Allora mettiamolo in un altro modo, c'è qualcosa che teme? Devo dire, aspetto di vedere che cosa farà realmente al di là delle dichiarazioni di questi giorni. Sì. Senta, torniamo alle donne. L'imprenditrice Brancaccio, Stefania Brancaccio, mi ha detto che solo quando saranno riconosciute nella loro diversità, solo allora ci sarà la parità. Lei è d'accordo? Sì, credo che abbia ragione, per quanto esistono alcune regole, per esempio nel mondo del lavoro, che io ripeto credo che riguardino l'essere umano e non il genere. Penso che ci sia, ma le quote rosa, la legge della quota rosa è uno strumento utile o no? È uno strumento utile, perché rispetto alla difficoltà di un processo che dal basso salisse verso l'alto è stato deciso di dare almeno. È stato deciso. Quello che credo sia veramente un'offesa per la dignità delle donne ancora la disparità salariale a parità di condizioni, è ancora parità molto di mansioni. Ma perché l'Enel c'è? No, non voglio dire, noi stiamo facendo nel progetto di Diversity anche una valutazione per l'eliminazione totale della disparità salariale, però per darle un dato europeo è intorno ancora al 20% in Europa. In Europa. Senta, molti dicono che l'Italia è sulla strada di una deindustrializzazione precoce. Lei la vede dal suo punto di vista? Guardi, io personalmente devo dire che non condivido. Noi abbiamo tanti problemi, ma restiamo ancora il secondo paese manifatturiero in Europa dopo la crisi che dal 2008 ad però oggi crescemo abbiamo pochissimo. Vissuto tutti, cresciamo poco, no. Però restiamo il secondo paese manifatturiero in Europa, restiamo l'ottava, se non sbaglio, potenza economica al mondo, siamo un paese senza risorse naturali se non certo. La bellezza del nostro paese, le risorse culturali, quindi insomma mi sembra che dovremmo rimboccarci le maniche e guardare avanti. Senta, ma la scalata di Vivendi a Mediaset la preoccupa in quanto italiana? Eh? No, un'opinione particolare. L'unica opinione che ho è che mi piacerebbe che la Francia reagisse nello stesso modo di fronte agli investimenti italiani, e anche se così, adesso Fincantieri è riuscita a comprare quel cantiere in Francia. Infatti qualche osservatori, anzi molti, ormai sostengono che i capitali francesi stanno lanciando un assalto sempre meno silenzioso all'Italia. È così? Devo dire sì, c'è stata la cessione di Pioneer ad Amundi, ma abbiamo altre grandi società del risparmio gestito in Italia, quindi l'importante credo che l'importante è la bellezza del mercato, è la bellezza del mercato, e credo che quello che è davvero importante è che ci siano condizioni di reciprocità. Senta, perché non ci sono? Nel passato la Francia non ha mostrato un atteggiamento di grande frastele con tutto, la Germania, solo noi vendiamo tutto, vabbè, insomma. Senta, tra poco, l'abbiamo detto prima, arrivano le nomine negli enti, abbiamo detto che lei, speriamo che la rinomino, sarebbe contenta, si parla però di un trasloco di Starace, cioè l'attuale amministratore delegato di Enel, all'Eni. È una fanta ipotesi o ne ha sentito parlare? Mi pare che Starace abbia smentito, pare che Starace abbia dichiarato di stare, che sta bene dov'è e che vorrebbe proseguire a fare il lavoro che ha iniziato a fare in Enel, speriamo che continui. Quindi speriamo che la coppia continui. Senta, presente. Vedrà l'azionista cosa fa. Naturalmente, la speranza uno però può averla. Voglio dire, a me piacerebbe. Appunto. Le faccio un'ultima domanda. Cesare Romiti, qualche mese fa qui ci ha detto l'Italia è da ricostruire come nel dopoguerra perché manca il lavoro e quindi manca tutto, cioè mancano le prospettive, la dignità e la fiducia. Fortunati 100.000 ragazzi che sono potuti andare all'estero. Lei cosa risponde a Romiti? Rispondo intanto che io credo che bisognerebbe essere un pochino più ottimisti rispetto alla nostra capacità di guardare avanti e di migliorare. Certo è un paese che deve continuare sulla strada delle riforme, su questo non c'è dubbio, perché dobbiamo, se vogliamo mantenere quelle posizioni o anche migliorarle, dobbiamo migliorare la nostra competitività. Rispondo anche che forse una parte di quei 100.000 ragazzi tornerebbe a casa volentieri. Grazie a lei. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, sms, pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Mix 24. E allora Mario, che titolo facciamo per Patrizia Greco? Facile, la donna elettrica. E tu Pietrangelo? L'adrenalinica bolletta. Adrenalinica bolletta, ok. Va bene, cosa ci fai sentire stamattina? Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn back. So please, please, please, let me get what I want this time. Allora è successo che un giorno, uno di quelli in cui sigarette e pensieri hanno un sapore cattivo, con estrema, esatta vaghezza ha preso posto in treno, si è messo in viaggio verso il soffitto, ha chiamato il tavolino, ha voluto questo brano per la lampadina con un messaggio. Fragile è il filo delle illusioni. Get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. E allora? La tua bolla, Mario? Che dove America, andiamo America, oggi? America, andiamo in America, America oramai, America. Sempre in America. E dove vuoi andare? Qua. Mamma mia. Finché ci lasciano entrare. Esatto. Ha fatto fare alla regia un disastro. Van Halen. Vabbè. È proprio duretta però la mattina sta musica, ragazzi, volevo dirmelo. Mamma mia. Come Trump, mia. Dai. Vabbè, volevo solo informarti che oggi General Motors annuncerà un investimento da $1 miliardo sugli stabilimenti americani e la creazione di 1000 nuovi posti di lavoro. Quindi il gigante dell'auto americana fa inversione di marcia. Torna in America. Torna in America e non va in Messico. Quindi si può fare tanta ironia sul protezionismo di Trump, si possono esprimere. Perché ironia? Non ironia. Si fa molta ironia, secondo me, sbagliando. Cioè, nel senso che. È una scelta di breve periodo. Sì, ma non hanno preso sul serio quello che lo sta fa succedendo. Sul serio. E invece, esatto, lo fa sul serio. E secondo me la prima vittima reale di quello che sta accadendo sarà l'Europa. Perché questo è sicuro. Perché l'Europa non ha capito. Infatti si parla di un'Europa divisa. Molto. Molto divisa. È debole soprattutto. Pietraggio Salamino. Sono piccoli ma cresceranno. Sta per cominciare l'era di Donald Trump e anche in Italia, nel loro piccolo, almeno 3 aspiranti Trump si danno da fare. Noi siamo piccoli ma cresceremo. Sono piccoli ma cresceranno, forse sono 2, e cioè uno è Matteo Salvini, leader della Lega, poi c'è Giorgia Meloni, leader di Forza Italia, ma forse sono 3 perché c'è anche Giovanni Toti, che è il governatore della Liguria, esponente di Forza Italia, ma autonomo sia rispetto al cerchio magico del fu dudù. E lui, che bello sentirlo, grazie. E anche rispetto al giglio magico nazareno, perché non ne vuole sapere di Matteo Renzi. Insomma, sono piccoli, ma cresceranno. Si sono dati appuntamento per giorno 28 a Roma. Faranno una manifestazione anti-euro e magari anche contro la NATO e contro la FCA. Qui bisogna stare attenti a pronunciare sta sigla. E contro, cioè, la vecchia Fiat, giusto per seguire le indicazioni di Trump, il parrucchino biondo che fa impazzire il mondo. Okay, sì, è una cosa simile. E si unirà a loro anche Daniela Santanchè. Oh, sì. Quindi anche Raffaele Fritto, non però Fritto. Non però Giulio Tremonti, perché a differenza degli aspiranti trampini d'Italia, lui è l'unico politico italiano invitato dal nuovo presidente degli Stati Uniti. E chi è che non ci sarà il 28 a Roma? Chi non ci sarà? Chi? Non ci sarà. Non ci sarà Silvio Berlusconi, non ci sarà Silvio Berlusconi, perché il Cavaliere, come sanno i navigati, quelli proprio con la coda lunga, il Cavaliere sta apparecchiando una bella legge elettorale proporzionale e i piccoli, ai noi, ai loro, ai tutti, per crescere dovranno per forza tornare a lui e ancora una volta cantare. Noi siamo piccoli, ma cresceremo. Su centrodestra è proprio una parentesi chiusa. Ma si vedrà, quello è sempre. Tu dici. Ma io penso che la politica evolva in fretta. Beh, però è passato un po' di tempo. Beh, ma insomma. Ma vai con una bolla, Mario, va. Vai. When I'm a walking, I strut my stuff, and I'm so strong. Questa è un'altra cosa che non è mia, ovviamente. Non cederò mai più lo scettro della discografia Gloria and Company. Stanno tutti a ridere. Ma che è questo? Violent Femme? Niente, sono due linee diverse. Sì, ma proprio molto diverse. Vabbè, comunque io sono democratico, si fa per dire. E Giovanni, il calcio, almeno in Inghilterra, perde gli spettatori. Poco fa abbiamo fatto tutta una discussione, sì, vai, racconto in retroscena su questa cosa, no, qua con Giovanni, magari la replichiamo. E insomma, perde spettatori, è molto interessante, ci sono dei dati elaborati da Bloomberg che leggevo stamattina, e la Premier League va male, cioè fa l'11% in meno di spettatori rispetto all'anno scorso, e addirittura rispetto a 5 anni fa stiamo a meno 20. Circa. Cosa vuol dire? Beh, intanto vuol dire molte cose, nel senso che abbiamo sicuramente un cambiamento degli stili di consumo, e probabilmente il modello distributivo è certamente in discussione per via dell'evoluzione tecnologica, degli smartphone, eccetera. E la domanda è se tutto questo arriverà anche in Italia. La domanda è per te, Giovanni: arriverà anche in Italia fenomeno? Guarda, arriverà anche in Italia di sicuro, perché è il problema dell'overdose di qualunque cosa. Sì. Anche il caviale, se ne mangi troppo ti fa male. Sì, cioè, però vabbè, ma averne no un no po'... è proprio così. Cioè, quando lo sport, partite, l'abbiamo già visto, è successo nel tennis, a un sì, certo punto il tennis c'erano gli scontri epici, ma se ne fai 40 durante l'anno perdono la loro magia, e questo sta capitando un pochino anche per il calcio. È interessante come rifaranno il mestiere dei broadcaster, dei distributori di news, spettacolo e sport. Sarà molto divertente. Canzoniere! È frusco il lonfo, è pieno di lupigna, a rafferia malversa e sofolenta. Se cionfi, ti sbiduglia e t'arrupigna. Se lugri, ti botalla. Allora? Aiutino? 800240024, aiutino, 349-238-6666, l'SMS. Aiutino è questo. La voce è quella di Gigi Proietti. Oltretutto ha avuto un grandissimo successo sabato. Ha spazzolato perfino Maria De Filippi. È andato proprio bene. E l'aiutino è questo, è intanto è Proietti. Indovinate poi, il titolo di questa meravigliosa poesia. Pubblicità. Mix 24. Dal 1979 al 1982 la mafia alza il tiro in Sicilia e massacra politici e magistrati. Il capo della Mobile Boris Giuliano, il presidente della regione Piersanti Mattarella, e il 30 aprile del 1982 tocca a Pio La Torre, ex segretario regionale del PC e primo parlamentare ucciso da Cosa Nostra, assassinato in un agguato nel cuore di Palermo, sua città natia. Dobbiamo lottare uniti per la giustizia, contro l'arroganza della mafia e dei campieri. Se in una città come Palermo, chi dirige l'amministrazione comunale decide di creare il regime della giungla per favorire gruppi di persone o singoli individui, è chiaro che su questo terreno la mafia si inserisce come a casa sua. L'impegno antimafia di Pio La Torre, insieme alla sua battaglia per la libertà, il progresso e la pace, ricordati ieri in un incontro alla Camera dei Deputati a 90 anni dalla sua nascita, sono stati indicati nei processi come causa determinante della condanna a morte decisa dalla mafia. Una lotta combattuta non solo nella sua terra, ma anche in Parlamento. Ed è qui che Pio La Torre ha vinto forse la sua battaglia più duratura. Insieme con Virginio Rognoni è stato promotore della legge che porta i loro nomi. Un testo rivoluzionario che introduce per la prima volta nel codice penale italiano il reato di associazione mafiosa e stabilisce il sequestro dei beni, uno strumento decisivo e primario per una nuova lotta contro le mafie. Abbiamo il telefono Manfredo da Firenze, per il nostro canzoniere, buongiorno. Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori, è il lonfo. Bravo, giusto. Bravissimo. Non mi ricordo chi l'ha scritto. Come? Non mi ricordo chi l'ha scritto, però. Come? Come? È il repertorio di Proietti. Ah sì, è vero. Lerici. No, la libero, mi sto confondendo infatti. No, il lofo. Posso fare una richiesta al direttore? Metasemantica, certo. Comunque, poesia metasemantica il sottotitolo. Sì, vabbè, anche se non lo dice fa lo stesso. Io, dica. Una trasmissione musicale diretta da Sechi. Ah, questa è una bella idea, ce lo chiedono in molti. Mio, così mi libero, diciamo che preferite il Sechi musicali, questo sta dicendo? Sì, veramente. No, lo amo così com'è. Ah, lo prendiamo musicale. Tutto, ma gli facciamo fare anche il musicale. Certo, pure. Sì. Guardi che l'assegno arriva tra poco, non si preoccupi. Okay. Abbiamo il suo numero. Per WhatsApp. Grazie. Grazie, buon lavoro. C'avevi una cosa, Mario, sì. Non musicale, ma c'è una cosa divertentissima. Sì, sì. Allora, praticamente Trump su Twitter ha sbagliato Ivanka. Sapete tutti come funziona? Sì, no? Voi scrivete il messaggio, poi mettete a chiocciolina l'account dell'utente. È solo che una donna di Brighton, in Gran Bretagna, stamattina si è svegliata e dice: ma che sta succedendo sul mio account Twitter? My God! Insomma, Trump l'aveva scambiata per sua figlia e aveva taggata nel suo account. Potete immaginare che cosa significa finire nell'account di Twitter di Trump. Dopo due minuti è venuto giù il caos. Questo però che cosa vuol dire? Anche un episodio curioso si può leggere in termini politici di comunicazione. Prego, Minoli. Noi abbiamo raccontato la storia della Cambridge Analytica, di come ha fatto la campagna elettorale di Trump personalizzando e profilando individualmente tutti gli elettori. Ecco qua, insomma, ecco, però qua. Può servire anche sbagliandosi, oppure per fare notizie in un altro modo. Come vedi, c'è riuscito. Oppure lavare al meglio il cervello. Oppure lavare al meglio il cervello, perché il porta a porta che è trasformato in un goccia a goccia. Guarda che Hillary, oltre ad aver sbagliato lei, perché aveva sbagliato tutto il messaggio della campagna elettorale, cioè aveva sbagliato l'algoritmo. Questa è la cosa. L'algoritmo qui, ma tu, sto algoritmo. Tu ci credi? Oramai questo algoritmo, a me un po' di dubbi mi vengono sempre. No, allora, sono degli strumenti molto utili. Certo. Per fare l'analisi, ma non è che sostituiscono il candidato, sostituiscono il sapere. Ma sono i matematici prevalentemente che inventano gli algoritmi. Ma non è stato Renzi a dire che il Movimento 5 Stelle è un algoritmo, l'ha detto un'intervista a Ezio Mauro, no? Sì, non era Fibonacci in intervista? No. Sempre i classici. Sì, mamma mia. Vabbè, il Fibonacci, Fibonacci è molto letto per la borsa. Sì? Sì, perché ci prende? Metodo di analisi, però previsione. Io vorrei sapere di più di questi algoritmi. Cioè, dovremmo fare una puntata proprio sulla costruzione, su chi sono questi. Come si fa? C'è dietro? Sono un segreto industriale. Noi sostanzialmente dipendiamo oramai dagli algoritmi. Tu pensa che cosa significa ora citare Google? È facile, ma è anche il vero motore, l'unico motore di ricerca, comunque quello che ha la quota di mercato. Monopolio, cosa significa essere ben indicizzati a seconda di come lavora l'algoritmo di Google? Certo. Se sei un'azienda, come si fa a crescere, salire in classifica? Certo, ci sono vari criteri, ovviamente, però significa vari criteri decisi da Google. Certo, l'algoritmo lavora in base a dei criteri. Infatti, il vero step, diciamo, il vero passaggio successivo sarà avere un algoritmo che emula il lavoro dei neuroni, cioè della mente. Ah, appunto. E intanto noi, per chiudere con neuroni intelligenti, diamo la parola a Gloria Guerrera, che ha scelto per noi qualche cosa. Oggi una canzone per chi ha il coraggio di pesare il cuore con entrambe le mani. Il conforto, Tiziano Ferro e Carmen Consoli. Questa città non dorme, allora siamo in due. Per non farti scappare, chiusi la porta e consegnai la chiave a te. Adesso sono certa della differenza tra prossimità e vicinanza.